America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. E lui adesso l'infante, oh mio Rodrigo, altezza, sei tu che io stingo al cielo. Appena proposto uno spezzone tratto da una rappresentazione qui in America dei Promessi Sposi, il grande romanzo storico di Alessandro Manzoni, una rappresentazione allestita dal regista, attore Massimiliano Finazzer Flori, una performance, devo dire, che ha attraversato tutta l'America a partire dal 13 giugno e che si chiude proprio oggi a Los Angeles con l'ultima rappresentazione, poi ci sarà un ritorno in ottobre. Ma di tutto questo voglio parlare proprio con Massimiliano Finazzer Flori, che è con me in linea da Los Angeles. Buongiorno Massimiliano, mi sente? Sì, certo, buona giornata a voi. Ecco Massimiliano, ma lei ha invitato questa sera Shia LaBeouf, il giovane attore, la grande stella americana, potrebbe essere forse un Renzo, un protagonista di un colossal hollywoodiano, la riusciamo a vendere questa storia a Hollywood? Ma non avevo pensato di invitare un attore del genere, mi sembra una provocazione simpatica, anzi, come dire, potrebbe essere l'occasione per poter cominciare a pensare a questi Promessi Sposi con degli attori anche di altri generi, per aprire un confronto a tutto campo con gli amici americani. Comunque, in attesa che Hollywood prenda una decisione, e speriamo di essere noi a stimolarla, posso però annunciare che proprio a Chicago, dopo il nostro spettacolo, sono stato avvicinato da un produttore americano e dalla sua autrice, stanno realizzando un film, e io lo ignoravo, su una figura nostra che è Anita Garibaldi. È un film che verrà prodotto in America ma girato anche in Italia in settembre in Sardegna, e mi hanno fatto la proposta di accettare una parte all'interno di questo film. Parliamo del collegamento fra Alessandro Manzoni e l'America. L'importanza di Manzoni all'estero, negli Stati Uniti, ricordo sono più di 60 le traduzioni presenti di Manzoni, sono state poi rallentate negli anni seguenti da una traduzione della lingua italiana in inglese non sempre felice. Voglio ricordare però, per chi volesse essere più appassionato, che un grande studioso di nome Freddy Chiappelli, negli anni 60, proprio dalla California, impegnava gli autori americani a cercare una nuova traduzione che fosse più corrispondente alle emozioni che deve suscitare questo romanzo e a quella lingua diretta, popolare ma non per questo non dotta, che deve arrivare a tutti. Forse per questa ragione il prossimo anno possiamo annunciare qui da Radio 24, finalmente un editore americano nella seconda parte del prossimo anno ci darà un Promessi Sposi in una lingua assolutamente compatibile al nostro tempo, alla nostra contemporaneità. Ecco, un altro collegamento, lo dicevo all'inizio, è il punto di riferimento che Manzoni ha trovato in Scott. È vero? Può raccontarci un po' questa storia? Effettivamente la parola magica, e se vuole misteriosa, è storia. Cosa significa storia per Manzoni? In questo senso condivide l'idea di Scott, cioè la grande storia è sempre non soltanto una storia di fatti, ma una storia di idee. Non v'è dubbio che la vicenda di Promessi Sposi è una vicenda che gli americani capiscono benissimo. C'è un popolo, come dire, che si vuole liberare da istituzioni che non capiscono il tema della libertà, e quindi un popolo che epicamente trova la propria identità con una grande ricerca, anche, come dire, sentimentale. Manzoni ha un'ossessione che è quella degli scrittori anche americani, di farsi capire, di parlare una lingua che possa essere capita da tutti, e questo di mettere a contatto gli umili con i dotti, la cultura bassa, cosiddetta bassa, la cultura alta, è un'esigenza che Manzoni ha chiaramente davanti a sé per far sì che questo romanzo diventi un romanzo della nazione. Questo è un tema anche di Scott e sarà un tema anche di altri scrittori, penso, di lingua inglese come Dickens. Come ha tradotto per gli americani i Promessi Sposi? La chiave psicologica che mi viene offerta proprio da quella recensione che era Allan Poe nel 1835 realizza per primo in suo americano, il quale vede in alcuni capitoli effettivamente proiettati su di essi sentimenti che vanno analizzati psicologicamente, lasciando un po' sospeso il cielo, intendo dire lasciando un po' sospeso il tema della provvidenza, e restituendo invece agli uomini anche un po' la responsabilità delle proprie azioni. Quindi questo mi è sembrato un ponte ideale per dialogare appunto tra la nostra letteratura e quella americana, e soprattutto tra i nostri valori e quelli degli Stati Uniti. E il mio spettacolo lavora sulla performing arts, che è una modalità di lavoro che è nata effettivamente negli Stati Uniti e cui credo molto. Cosa vuol dire questo? Che le musiche di Verdi e il violino, che le coreografie e la danza classica contemporanea che mettiamo in scena insieme alla mia voce si richiamano l'una con l'altro con sentimenti a volte anche di grande impatto nostalgico. Ecco, questo spiega la scelta di Verdi, ma soprattutto di quel Mascagni dell'inizio del Novecento che è tanto nel cuore in molti italoamericani. Senta, ma lei mi ha detto prima che Edgar Allan Poe ha fatto la prima recensione in America dei Promessi Sposi. Questo è un aspetto veramente molto interessante. È un libro che par di romanzi di Cooper ed è costruito almeno altrettanto bene e ci viene offerto al modesto prezzo di 42 cent. Equivale a un intero numero del Washington Library. E beh, è un po' che parla così, è nel 1835 ed è sempre lui che in qualche modo, forse mentre sta leggendo i Promessi Sposi, sta vivendo una situazione molto vicina a quella di Renzo, questo grande scrittore, e si sposò con una donna molto più giovane di lui e ebbe una contrastata relazione da parte dei genitori di lei. Insomma, forse c'era qualcosa che in qualche modo richiamava un po' le vicende di un amore trattenuto o impedito addirittura. Senta, se lei dovesse pensare a un equivalente dei Promessi Sposi in America, cosa le viene in mente? Un equivalente in senso stretto non c'è, però la Costituzione americana in un certo senso allude ad degli sposi che non possono che essere appunto il popolo americano con la libertà. Sono figure attualmente stilizzate, idealizzate, ma certamente la tensione di fronte alla resistenza che c'è tra un popolo e la sua libertà in quella Costituzione, che io trovo splendida, in qualche modo mi sembra più vicina a un'opera letteraria che a un'opera politica. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il rapper californiano Lil B ha deciso di distribuire il suo nuovo album dal titolo I'm Gay, I'm Happy su iTunes e ha detto: sarà un album rivoluzionario, voglio davvero rompere una barriera e aprire la mente della gente. Di Lil B, Trapped in Prison. Trees in the woods, like the hood, it's more than Martin Luther King, fighting for a dream, watch me go against everything you believe, the disrespect is trying to spark your dreams, everybody know it's easy to fail, but it's harder to think, think twice, I'm nicer than grandma with a cup of iced tea, you see me, I got ice like ice, surfing them ice, the same color, small mice, leaving my office, he gon' pay a small price, my advice, get out of the game, they giving you chains, new coin, they taking your chains. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.